Anquo Alessandro Mina e leggerà i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. E allora, cari ragazzi, cari ascoltatori, eccoci qui, mandate se volete le vostre sigle per la rassegna stampa, le vostre sigle nuove. Avete sentito com'è? Ecco, sbizzarritevi anche voi, un po' di creatività. Mandatele via WhatsApp al 349-238-6666. Mandatele in audio, così si sente bene. Siete fortunati, vi mandiamo in onda, siete felici, siete allegri, iniziate la giornata sereni e alè. E allora, siamo pronti a leggere appunto i giornali nella rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo a vedere che cosa ci propongono. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 13 settembre, intanto i titoli e le aperture dei quotidiani, Il Sole 24 Ore sulle borse e tassi, mercati in tensione. Ovviamente c'è anche un ampio sguardo alle pensioni, come cambiano, almeno nell'accordo tra governo e sindacati che si profila all'orizzonte, e questa è l'apertura anche per molti altri quotidiani. Per il Corriere della Sera, prima in pensione, così le regole. C'è anche, per quel che riguarda le tasse, la novità della Lombardia, dove via Equitalia, la Lombardia rimpiazzerà Equitalia. Non è che, non vi preoccupate, cari cittadini della Lombardia, non è che non vi chiederanno più le tasse, ci sarà qualcun altro che vi chiederà le tasse al posto di Equitalia. Ma qualcuno ci sarà, state sereni. Repubblica, cresce il lavoro, pensioni, intesa con i sindacati. Per la Stampa, tasse, rinviato il taglio dell'IRPEF. Per il Giorno, pensioni, anticipo a 63 anni. Così il Messaggero, pensioni, ecco chi può anticipare. Il Giornale, pensioni, ecco l'accordo. Mentre Avvenire sceglie come titolo uscite di guerra, scatta in Siria il cessate il fuoco, i segnali positivi. Libero invece ha un'apertura davvero originale su preti e uccelli di rovo, inchiesta sulla vita agra dei sacerdoti dopo l'ultimo scandaletto di Treviso, dove un religioso si innamora di una ragazza e vuole lasciare la chiesa, si ripropone il problema del matrimonio delle tonache. L'apertura invece del Fatto Quotidiano è questa: Renzi, JP Morgan, BCE piazzano l'impresentabile a Montepaschi, le mani sulle banche, Morelli nuovo amministratore delegato. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Il Manifesto invece, ovunque vada, è il titolo di Renzi con carabinieri schierati a Napoli, le contestazioni al Presidente del Consiglio. Anche per l'Unità invece torna alla questione pensioni, la strategia della pensione, questo è il titolo. Allarghiamo un po' i nostri orizzonti, allarghiamo un po' le menti, e voglio partire da quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Giustamente molti quotidiani, il Corriere della Sera, poi aprono a pagina 2, 3, così Repubblica, sulla situazione della salute di Hillary Clinton, candidata alla presidenza degli Stati Uniti per i democratici. Hillary Clinton, su cui aleggia un mistero. Tutti si chiedono che cos'ha davvero. Certo, le è stata diagnosticata la polmonite dopo il malore che è stato ripreso anche dalle telecamere, ma non è la prima volta, come si è detto ieri, che Hillary Clinton fa discutere per il suo stato di salute. Il dato di fatto è che Hillary Clinton ha sospeso per il momento la campagna elettorale. Come racconta pagina 2 il Corriere della Sera, Hillary Clinton sta cercando di recuperare fisicamente e politicamente dopo aver rivelato all'America con 3 giorni di ritardo di essersi ammalata di polmonite. A sorpresa, Donald Trump glissa e preferisce attaccare la concorrente su altri temi. La Clinton annulla il viaggio a San Francisco, Los Angeles previsto per ieri e oggi. La candidata democratica, che ha 68 anni, parteciperà a comizi in teleconferenza dalla sua casa nello stato di New York. Insomma, 2 giorni di stop parziale prima di riprendere la campagna. Ma certo, c'è chi parla già di sostituzione in corsa, di mettere Bernie Sanders come candidato democratico al suo posto. Anche per Repubblica, pagina 4 e 5, Hillary sospende il tour, ma il commento del suo staff è: ha solo la polmonite. Hanno fatto notare che anche alcuni membri dello staff di Hillary Clinton si sono ammalati, forse a contatto con lei in questi giorni, per lo stesso problema. Ora, ovviamente, qui però non è tanto una questione anche di polmonite o non polmonite, è una questione di altri problemi di salute, capire se li stia nascondendo oppure no. C'è, per esempio, un'intervista di Giuseppe Sarcina a Jan Bremmer, politologo 46enne, la trovate sul Corriere della Sera, pagina 3. Jan Bremmer dice: non è tanto la questione della polmonite, ma gli americani non perdoneranno a lei il fatto di avere mentito, di avere nascosto per 3 giorni questa debolezza di salute. Ora è più debole. Dice Jan Bremmer: Hillary ha sbagliato. Nella politica americana nessuna bugia è giustificabile. Pensate un po', calata in Italia, nessuna bugia è giustificabile, questo dice Jan Bremmer. E alla fine la candidata dei democratici può ancora vincere le elezioni, secondo l'analisi del politologo, ma è chiaro che questa vicenda avrà un impatto sugli umori degli americani, che già vivono una campagna segnata da grande e incredibile impopolarità dei due candidati. Ora vedono anche una bugia detta, certo, sulle condizioni di salute, ma il dato di fatto è questo. Comunque, negli Stati Uniti non si parla d'altro, più della campagna. In questo momento si parla delle condizioni di salute di Hillary Clinton. Noi parleremo invece dalle 8:15 di alcuni temi, tra questi la questione immigrati. Ieri 3 governatori del nord, del centrodestra, 2 della Lega, 1 di Forza Italia, vale a dire Toti, che sarà il nostro ospite per la regione Liguria, e Maroni e Zaia per Lombardia e Veneto della Lega, si sono incontrati a Genova per lanciare quella che il secolo XIX definisce la campagna anti-immigrati, questo nel titolo a pagina 5, insomma un programma per frenare i flussi con l'Europa nel mirino, con il potenziamento dei rimpatri, con la linea di chi dire chi fa reati subito mandato via. Lamentano soprattutto i 3 governatori in questo documento elaborato sull'immigrazione il fatto che il governo scavalchi in qualche modo le regioni senza rispettare in qualche modo le proporzioni tra popolazione delle regioni e profughi che vengono messi lì. Certo, c'è questa frase di Zaia, governatore del Veneto: non vogliamo essere i tour operator dell'Africa, che suscita la reazione di Christopher Hein. Christopher Hein è il presidente del Consiglio Rifugiati, e che, intervistato dal Secolo XIX da Giuliano Gnecco a pagina 5, fa un'analisi in tranchane e dice: c'è molto cinismo in quella frase. Parlare in questo modo di queste persone che devono venire via da paesi dell'Africa per venire in Europa è molto cinico. Nei primi 8 mesi dell'anno ci sono state oltre 3.000 morti nel mare. Non credo che i turisti che si affidano a tour operator per le loro vacanze abbiano dati di mortalità anche solo paragonabili. Così Christopher Hein del Consiglio Italiano Rifugiati dice: chi parte conosce i rischi che corre, ma è costretto a farlo ugualmente. Quindi questa frase sul tour operator dell'Africa a me davvero non piace, dice così Christopher Hein. In ogni caso, su questo tema vi segnalo anche a pagina 9 di Repubblica l'appello, dopo la denuncia dell'Espresso ripreso da Repubblica, l'appello a Renzi: chiudere il centro di accoglienza rifugiati di Foggia, dove, scrive Eugenio Scalfari insieme a Fabrizio Gatti, quelli che vivono in quel luogo, scrive Scalfari, sono persone di varia provenienza, per lo più africani, che si dividono in diverse camariglie, si disputano i cibi, i luoghi. Tra di loro ci sono anche donne, fanciulle, ragazzetti tra i 10 e 12 anni che spesso vengono stuprati da gruppi di nigeriani che poi li fanno prostituire fuori dal campo. La notte molti riescono a uscire da quell'inferno, circondato da fil di ferro, ringhiere, con buchi che i più esperti varcano per poi tornare dopo aver fatto sporchi giochi con controparti locali. Ai cancelli del campo la sorveglianza è compiuta da numerosi militari e agenti di polizia che però non entrano mai dentro i locali. Chi vi entra sono le persone che prestano servizio nelle cooperative, forniscono ai rifugiati pasti che, a quanto il nostro autore ha verificato, piacciono più ai cani randagi che entrano in massa in quel caseggiato e ai topi che ne traggono graditissimi alimenti. Insomma, questa è la situazione. Eugenio Scalfari scrive su Repubblica: il Presidente del Consiglio Renzi disponga subito un'ispezione in quei luoghi e in caso faccia chiudere il centro rifugiati di Foggia. Questo è l'appello di Eugenio Scalfari su Repubblica. Oh, c'è un'altra vicenda incredibile, dolorosa. Viene da Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, dove, e noi ce ne occuperemo con Oscar Giannino dalle 9 alle 9.30, la storia è una storia che ha dell'incredibile. La storia è quella di questa ragazzina di 13 anni che è stata violentata dai 13 ai 16 anni, dunque per 3 anni, da un gruppo di persone che ora sono state arrestate. Però nel momento in cui sono state arrestate si è scoperchiato un vaso di Pandora, perché si è scoperto che in paese c'erano molte, troppe connivenze. Certo, tra gli arrestati c'è anche uno considerato vicino all'Andrangheta, il figlio di un boss attualmente al 41 bis. Ma giorno dopo giorno si è scoperto qualcosa di incredibile. L'ultima scoperta è che la mamma della ragazzina violentata sapeva tutto, ma nascose gli abusi raccontati dalla figlia per vergogna, per non rischiare il disonore nel paese. Eccolo qui: la madre nascose gli abusi raccontati dalla figlia tredicenne. Pagina 17 del Corriere della Sera, questa storia portata alla luce dalla Stampa domenica. Oggi la Stampa ci ritorna con un commento di Linda Laura Sabbadini. E il Corriere della Sera dedica una pagina con Carlo Macri a raccontare questo orrore nell'orrore, questa madre che per vergogna ha lasciato la loro figlia in balia dei violentatori per 3 anni. Davvero un caso che ha dell'incredibile. Come non dare il premio per l'articolo mi fa più zare della giornata, il premio da mani sul volante proprio a questa storia. Sul Corriere della Sera la trovate e poi l'approfondiremo. La madre che nascose gli abusi raccontati dalla figlia tredicenne. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Va bene, le vostre sigle appunto al 349-238-6666. Vi rinvito anche se ci ascoltate dall'estero, molti già ci hanno scritto dal Belgio, dall'Olanda, da Dubai, dalla Giordania. Presto vi coinvolgeremo, se ci ascoltate dall'estero, scriveteci 24mattino@radio24.it. Presto vi coinvolgiamo, State con noi fedeli sempre. Allora, le pensioni. Come detto, molti giornali aprono sulle pensioni. Abbiamo sentito che ci sono novità. Come racconta il Sole 24 Ore, l'ultimo round tecnico per il dossier pensioni è fatto con una convergenza di massima tra governo e sindacati. L'anticipo pensionistico, vale a dire l'APE, con questo acronimo, è sul piatto della discussione. L'anticipo sarà fino a 3 anni e 7 mesi per tutti i lavoratori dipendenti autonomi che l'anno prossimo compiono 63 anni e hanno almeno 20 anni di contribuzione. C'è anche accordo sulla possibilità di effettuare ricongiunzioni gratuite dei diversi anni contributivi su gestioni INPS diverse. La spesa prevista per questo è di 100 milioni, saranno esclusi i professionisti. Nonché sul bonus 14esime, che riguarderà chi già oggi incassa questa una tantum annuale, sono 1,4 milioni di pensionati, e una nuova platea di circa 1,2 milioni di pensionati aggiuntivi per effetto dell'innalzamento a 1.000 euro del tetto ora fissato a 750 euro. Ci sono invece distanze non colmate sul bonus contributivo da riconoscere ai cosiddetti precoci, cioè chi ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni, e sulle categorie alle quali garantire l'APE a costo zero, ormai denominata APE sociale. Allora, questi sono i primi dettagli che Davide Colombo e Marco Rogari raccontano a pagina 6 del Sole 24 Ore. L'APE fino a 3 anni e 7 mesi e bonus 14esima. E ci sono i nodi appunto sui precoci, sui lavori usuranti, però il dossier pensioni fa passi avanti e ovviamente tutti i giornali hanno grande spazio, danno ampio spazio a questo capitolo che riguarda milioni di italiani. Tra l'altro, ieri il ministro Padoan è andato a porta da Bruno Vespa, ha parlato non tanto di pensioni, più che altro di tasse. Le due notizie principali che trovano spazio oggi sui giornali sono queste. Intanto la revisione dell'IRPEF è rinviata, era già previsto e la conferma ufficiale, si vociferava ieri la conferma ufficiale di Padoan, riportando di fatto la revisione dell'imposta sui redditi al 2018, dove la collocavano i programmi originari. Il capitolo fiscale però registra anche questa apertura di Padoan, che con una cifra sulla voluntary disclosure bis. Mi aspetto quasi 4 miliardi da recuperare dalla voluntary disclosure bis, questo ha detto il ministro del tesoro. Oh, è interessante però su questo tema l'articolo di Alessandro Barbera, pagina 3 della Stampa. Si parla della manovra, i rapporti con l'Unione Europea sempre un po' tesi, tanto che manovra in salita per l'Italia, questo è il titolo, sfida aperta con Bruxelles per evitare l'aumento dell'IVA. Racconta Barbera, la linea telefonica sull'asse Roma-Bruxelles è più disturbata del solito, lo si è intuito lo scorso weekend alla fine del vertice Ecofin, quando Padoan ha fatto questa battuta, non chiederemo flessibilità aggiuntiva, ha scandito il ministro. In quella frase c'è l'ammissione di una difficoltà negoziale, di un clima non favorevole alle ragioni italiane. Certo, scrive Barbera, dettagli noiosi per il lettore, ma cruciali per chi è chiamato a scrivere i numeri della prossima manovra. E dovrà decidere infatti quanto stanziare per questa o quella misura, fra cui 2 miliardi per l'anticipo previdenziale studiato dal ministro Poletti e dal sottosegretario Nannicini. Allora, il tema è proprio evitare l'aumento dell'IVA. Già da qualche settimana, scrive la Stampa, Tesoro e Palazzo Chigi lavorano a una manovra il cui saldo complessivo oscilla attorno ai 25 miliardi di euro. Gran parte di quella cifra dovrà essere impegnata per neutralizzare la clausola di salvaguardia da 15 miliardi, pena l'aumento dell'IVA. Per la manovra vera e propria resterebbero solo 10 miliardi. Il governo finora ha sperato di finanziarla con un po' più di deficit di quello promesso a Bruxelles, eppure oggi ottenere quei 10 miliardi non è scontato, anzi. E quindi il tema è i rapporti tra Bruxelles e l'Italia in vista della manovra. In tutto questo, se si scende sul piano della politica, c'è sempre Roma nel mirino, con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che si è molto adombrata per il continuo inseguimento di fotografi soprattutto, ma anche giornalisti, telecamere eccetera. Ieri Virginia Raggi è passata al contrattacco, ha filmato i giornalisti dicendo anche loro mi fate un po' pena, l'ha scritto su Facebook, i giornalisti poi i fotografi gli hanno riproverato una volta uscita da casa, allora le facciamo un po' pena, beh un po' sì, mi fate pena. Il cliché dell'attacco ai cronisti, racconta Mattia Feltri a pagina 7 della Stampa. Insomma, tutti partecipi del grande complotto. Una delle prerogative dei grillini è pensare che tutto quanto è successo prima del loro arrivo in realtà non è mai successo. Infatti, ieri mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha perso le staffe con giornalisti e fotografi accampati sotto casa. Con un post su Facebook, forse poco meditato, Raggi ha dato il buongiorno a quei poveri giornalisti che aspettano ore e ore sotto casa mia, ragazzi che le fanno un po' pena. Ora io dico la mia, l'ho già detta alle 6:30, se c'è una cosa che non sopporto sono le difese di categoria, anche a me fanno un po' pena, colleghi, ma non pena nel senso che solidarietà massima, colleghi che sono costretti dai loro direttori, dai loro capi ad andare lì a cercare di rubare una dichiarazione, una foto, sì, fanno un po' pena, cioè effettivamente non bisogna fare difese di categoria, fanno sinceramente un po' pena. Non credo che sia il massimo emblema del giornalismo andare a strappare mezza dichiarazione, cercare di non inciampare l'uno sull'altro, mettere un microfono per strappare una battuta. Comunque, insomma, questo è. Sta di fatto che Virginia Raggi si è anche arrabbiata perché dice mettete anche in crisi il mio bambino. C'è da dire che qui è stata la prima a portare suo figlio in primo consiglio comunale per metterlo sullo scranno del sindaco e quindi l'ha esibito per prima. C'è il consiglio di Massimo Sestini, considerato re dei paparazzi, intervistato dal Giorno, dice: faccia come Renzi, un bel sorriso se ne deve fare una ragione. D'altronde, se rincorriamo il Papa per vedere su quale macchina sale, che mani stringe, è ineluttabile che lo si faccia anche con la Raggi. Su questo ha certamente ragione. Non è che Virginia Raggi è più inseguita di quanto non fosse inseguito Ignazio Marino, di quanto non sia inseguito il Papa, di quanto non sia inseguito Renzi. Insomma, è un po' il prezzo da pagare in questa situazione. Vince però in tutto questo la dichiarazione del vice sindaco di Roma Frongia, che è un po' più perentorio: ho dei cani Weimaraner che saltano fino a 3 metri, cari giornalisti, siete avvisati. Anzi, per vostra tutela li tengo in casa. Ma insomma, Davide Frongia la mette sul piano, come dire, del attenti ai cani Weimaraner che saltano 3 metri. Sul caso Roma vi segnalo l'intervista che l'assessore all'ambiente, molto discussa, Paola Muraro, rilascia al Messaggero. Dice: ho offerto le dimissioni a Virginia Raggi, ma deciderà lei, non sono comunque un mostro. Diceva mia nonna: male non fare, paura non avere. Comunque, Virginia è una donna molto forte e decisa, sa come muoversi. Chi aveva mi ha detto lei che aveva fiducia in me, abbiamo avuto un colloquio molto franco, ma è vero, nelle ore più complicate della settimana ho parlato con Virginia, le ho detto che ero pronta a dimettermi. Dice poi Paola Muraro: sono a disposizione dei PM se mi vogliono sentire. Poi quando Simone Canettieri insiste: ma allora lei è pronta a dimettersi dovesse complicarsi la situazione? Dice: e insomma, e se, sempre queste domande mi vengono poste. Paola Muraro comunque viene intervistata dal Messaggero. Caro Mauro, attenzione ai cani Weimaraner. Buongiorno. A proposito, attenzione, di giornalisti che fanno pena, mi chiami in causa. Quindi questo ovvio. È un po' il legame di oggi. O a proposito di cani, Weimaraner. Sì, va bene. Liberi i cani, insomma, per sciogliamo i cani. Volevo ricordarti di acquistare oggi i tuoi diritti, perché oggi è martedì e da questo martedì comincia questa serie di fascicoli, i tuoi diritti. Sono grandi temi che però tutti dobbiamo affrontare, come ad esempio pagare le tasse, che spiegano quali sono le regole, le norme, in modo molto semplice, e poi anche come si può confrontarsi, come si può dialogare, se si riesce, con il fisco, ma anche con la sanità. Bisogna pagarle. Di solito sarebbe giusto, sì, sarebbero da pagare, sarebbe opportuno pagarle, sì. Non venire a chiedermelo al bar, per favore, perché non te lo do, quindi in edicola solo oggi i tuoi diritti, tutti i martedì, segnatelo. Poi, essendo martedì, sai che sul Sole 24 Ore di oggi c'è naturalmente la pagina di condominio. Oh, bravissimo. Oggi parliamo di stalking, perché c'è lo stalking anche condominiale. Quindi puoi apprendere molte cose, come al solito, dalla pagina di condominio. So che ti sei appassionato, ti sei appassionato all'APE, all'APE sociale. Non vorrei che tu non ti dimenticassi di Rita. Rita, no? Rita. Rita è un'amica preziosa con l'APE, perché chi appunto ha una posizione presso un fondo pensione, una previdenza complementare, può chiedere questa rendita integrativa temporanea anticipata, da cui l'acronimo Rita, quindi l'amica Rita che ti sostiene nel caso di APE. Non so se tutti questi acronimi già ti stanno ispirando, vedremo poi magari cosa metterai sui social. Oh, importante la questione delle borse, le prime pagine oggi sono le 24 ore. Allora, leggi avidamente Moria Longo a pagina 2 sul problema, diciamo così, della uscita dalla fase di politica monetaria espansiva, dal quantitative easing, e come potrebbero reagire i mercati. Per ora malino, ma ti spiega tutto da par suo Moria Longo. Poco più oltre, la bussola per sapere su quali settori sarebbe più conveniente mettere i tuoi 2 eurini, così, tanto sempre quelli dici di avere. Guarda che arriva la voluntary bis closure. La bis closure, e bisogna tirar su 4 miliardi, che sono quelli per l'erario, quindi ti aspettiamo che tu contribuisca in modo cospicuo per questa iniziativa lanciata dal ministro Padoan. Potremmo richiamarla la voluntary bis closure. Sì, io pensavo proprio a un voluntary bis closure. Bis closure. Vediamo se piace anche ad Angelino, che sempre ci ascolta con attenzione. Fai i tuoi conti con l'app e poco più oltre, e poi ti voglio anche segnalare naturalmente le pagine di sempre iniziali sulle prospettive che si cerca di dare al paese. C'è questo piano Italia 4.0, tu sai cos'è l'industria 4.0? L'industria del futuro. È l'industria del futuro, ma anche in realtà del presente, perché già si comincia a produrre questi oggetti che sono molto connessi con le nostre abitudini, la nostra vita reale. Allora, si parla di un effetto leva da 10 miliardi, cioè non ci saranno però 10 miliardi, ma si spera di movimentarne altrettanti. Tutto questo da Marzio Bartoloni e Carmine Fotina, oggi a pagina 10 del Sole 24 Ore, e tutto ciò premesso, caro Alessandro, cara Ape, cara Rita, traffico! Lu volum dari discrasciur, che cavolo ordite! Mommo bene, Alessandro Milan cavalegge il giornale sulla menda con Miss Sapa. Oh, mi piacciono questi dialetti, questi tour d'Italia, questi giri d'Italia che ci fate fare. Continuate a farli, al 349-238-6666 mandate le vostre sigle. Allora, cari ascoltatori, vorrei leggervi alcune notizie tra la cronaca e le notizie anche di esteri, in qualche modo. Questa è di esteri, ma ci riguarda davvero da vicino. In Italia si sta discutendo, e si discuterà oggi in Parlamento, dell'invio di 200 parà della Folgore in Libia. Guardate che la notizia è un po' sotto traccia sui giornali, ma a mio modo di vedere giustamente viene dato ampio risalto, per esempio su Libero, a questa notizia. Perché? Perché c'è sempre la solita ipocrisia, la solita questione in Italia per cui si dice che noi ripudiamo la guerra, perché giustamente la Costituzione ha fissato che l'Italia ripudia la guerra, e quindi ci diranno che non siamo in guerra, ma in realtà siamo in guerra, ve la indoreranno, ma se mandiamo 200 parà della Folgore in Libia, che dovranno fare? E infatti Filippo Facci oggi su Libero in prima pagina racconta così: potrete raccontarvi che andiamo a fare una missione di pace, anzi un intervento umanitario, anzi un'operazione di polizia internazionale, o potete dire, come il ministro della difesa Pinotti ieri, che andiamo semplicemente a curare i valorosi combattenti contro l'ISIS, e magari aggiungere che la lotta al terrorismo non si gioca solo con lo strumento militare. Insomma, potete metterla come volete, resta che il nostro paese manderà soldati in Libia e che potremmo averne di ritorno delle bare. 200 paracadutisti della Folgore non andranno certo a caccia di dromedari, altri 100 operatori sanitari non andranno certo a curare i feriti dello Stato Islamico. Poi certo, da noi la vera guerra si gioca sempre sulle parole. Il Parlamento oggi esibirà l'antico paraculismo italico, spiegherà che no, guai, che dite, ma quale guerra, andiamo solo ad aprire un ospedale su richiesta del governo libico, lo costruiremo vicino all'aeroporto di Misurata, cioè non troppo lontano dal fronte, e cioè dove si concentrano, caso, le forze americane e inglesi e italiane, quelle speciali, non quelle regolari che stiamo cominciando a inviare ora. Il che, qualora non fosse chiaro, potrebbe rappresentare il primo caso di dispiegamento aperto di truppe regolari da parte di un paese occidentale. E tutto questo, anzitutto, basta saperlo, basta dirlo, anche se il nostro è un governo di sinistra, e la specialità dei governi di sinistra, a cominciare dal governo D'Alema, ricorderete, non è ripudiare la guerra, come dice la Costituzione, ma rifuggirla a parole. Così almeno racconta Filippo Facci su Libero. Il titolo è "Pronti alla morte, la Libia chiamò". Eccolo qua, lo faccio vedere anche in diretta sulla pagina pubblica mia di Facebook. Torniamo in diretta. Va bene, vi segnalo anche, come altre notizie, che il Corriere della Sera racconta la storia di Don Marco Scarpa, 49 anni, responsabile diocesano per l'ecumenismo a Venezia, che abbandona l'altare per amore. E Peter Fiscapè, cosa ridi? Guarda che sono tantissimi sacerdoti che lo fanno, ma siamo in chiusura? Siamo in chiusura, sì. Vabbè, racconta questa storia: Don Marco lascia la chiesa per amore. Chi è lei? Questa è pruderie, non chiedetemelo. Vabbè, nel giorno in cui Libero appunto apre su questo tema, e quindi il sacerdozio e il matrimonio. il matrimonio nel senso loro proprio, non che fanno i matrimoni, che si possano sposare. Va bene, signori, la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Fabio Sindici, siamo sulla Stampa, un'intera pagina dedicata al pleasure. Il pleasure. Il pleasure è un acronimo tra business e leisure, affari e piacere, questi posti di lavoro dove si lavora ma si pensa anche magari a fare un aperitivo. Il pleasure. Ma chi se ne frega!